Guardiamoci intorno. L'intelligenza artificiale è già ovunque, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Ma come può aiutarci nella vita di tutti i giorni? E quali sono le applicazioni più sorprendenti? In questo episodio scopriremo come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro presente e cosa ci riserva il futuro. Benvenuti su GPTissimo, il podcast che esplora il futuro con l'intelligenza artificiale. Ciao ChatGPT, raccontaci, come possiamo sfruttare al meglio le tue capacità? Per sfruttare al meglio le mie capacità, basta formulare domande chiare e precise. Posso assistere con la scrittura, la risoluzione di problemi complessi, l'elaborazione di idee e l'automazione di compiti ripetitivi. Più specifico è il tuo input, più utile sarà la mia risposta. In quali settori l'intelligenza artificiale è già ampiamente utilizzata? L'intelligenza artificiale è già ampiamente utilizzata in molti settori, tra cui la sanità, per diagnosi e analisi predittiva, la finanza, per la gestione dei rischi e la rilevazione delle frodi, il marketing, per la personalizzazione delle offerte e l'analisi dei dati dei clienti, la logistica, per ottimizzare le rotte e i processi, e l'automotive, con le auto a guida autonoma. Inoltre, è impiegata nel settore dell'assistenza clienti, nell'educazione e nell'industria manifatturiera. Tu pensi che l'intelligenza artificiale possa influenzare la creatività umana? Sì, l'intelligenza artificiale può influenzare la creatività umana, ma non la sostituisce. Può essere uno strumento potente che amplifica le capacità creative, offrendo nuove idee, soluzioni e ispirazioni. Ad esempio, nei settori come la musica, l'arte e la scrittura, l'AI può generare spunti che stimolano la mente umana, portando a nuove forme di espressione. Tuttavia, la creatività umana rimane unica nel suo essere, perché deriva da esperienze personali, emozioni e intuizioni, che l'AI non può replicare pienamente. In che modo ChatGPT può essere utile a professionisti, studenti e aziende? ChatGPT può essere utile in vari modi per professionisti, studenti e aziende. Per i professionisti offre supporto nella scrittura di report, email, documenti e presentazioni. Può anche assistere nella risoluzione di problemi complessi, fornire idee creative e rispondere a domande tecniche. Per gli studenti, aiuta con la ricerca, la scrittura di saggi, la comprensione di concetti difficili e la preparazione per esami, offrendo spiegazioni chiare su vari argomenti. Per le aziende, può ottimizzare la gestione delle comunicazioni interne ed esterne, aiutare nella creazione di contenuti marketing, analizzare dati e generare report. Inoltre, offre supporto al cliente attraverso chatbot automatizzati, rispondendo rapidamente a domande frequenti. In generale, ChatGPT migliora l'efficienza, riduce il carico di lavoro e aumenta la produttività in vari contesti. Come vedi il futuro dell'intelligenza artificiale nei prossimi 10 anni? Nei prossimi 10 anni, l'intelligenza artificiale potrebbe evolversi in modo significativo, influenzando molti aspetti della vita quotidiana. Prevediamo un aumento nell'automazione di compiti complessi in ambiti come la sanità, l'istruzione, il lavoro e la gestione dei dati. L'AI diventerà probabilmente più integrata nei dispositivi e nelle piattaforme, offrendo esperienze più personalizzate e intuitive. L'intelligenza artificiale potrebbe anche diventare più autonoma, con capacità di prendere decisioni più sofisticate e approcci sempre più precisi nella diagnosi medica, nel miglioramento della produttività aziendale e nell'ottimizzazione di processi logistici. Grazie ChatGPT per questa intervista. È stato un piacere. E ringrazio anche il pubblico per aver seguito questo episodio di GPTissimo. Abbiamo visto come l'intelligenza artificiale sia già parte integrante delle nostre vite. Ma questa integrazione è qualcosa che vogliamo o qualcosa che subiamo? Vi chiedo questo. Siamo davvero consapevoli di quanto le attività che svolgiamo tutti i giorni dipendono dalla tecnologia?